con noi cantò, da che fatiche, stenti e cicloni la nostra errante vita affrontò. Quando con baci d'oro e velieri l'ultimo raggio di sol morì, e giù tra i gorghi dei flutti neri qualcun dei nostri cadde e sparì. Su canto mare, l'opera gli eroi, tempeste calme, gioia e dolor. Oh mare canta, canta con noi l'inno di stelle. Già da ogni prora che corso affretta la evocatrice di Ara squillò, e all'alba il grido della vendetta la verde terra già salutò, terra ideale dell'alleanza tra menti e braccia, giustizia e cor, salute e porto della speranza che invoca il mesto navigatore. Su canto mare, l'opera gli eroi, tempeste calme, gioia e dolor. Oh mare canta, canta con noi l'inno di sdegno, l'inno con torchi in mani la civiltà.